minuti su Rigonia. Getting braver. We wanna put his ass in take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Our Bored and Brilliant project, we got 130 people together on a cold winter night. This is my favorite idea, a Muppet. This is a sponge vampire. For a little experiment. We wanted to see what would happen when people put down their phones and got bored. So, we broke everyone up into three groups. One group copied the phone book. One group read the phone book. The control group went to the bar. Then we gave everyone two ordinary objects. And they had to come up with as many ideas, as many uses for these two ordinary objects, a fork and a sponge, as they possibly could. Yeah, it got a little weird. Take the fork, you have to cut the sponge in half, and you make little eyeglass rings and make little opera glass. The best idea I came up with was a thing to pat dangerous animals from afar, so you can put the sponge on one end. The best was using the sponge as a cozy to wrap around the fork so that it would go ergonomically, you know, so easy to hold. We can't prove it definitely, but the people who got most bored, those who read the phone book, they had the most creative ideas. We think. Mostly. Sort of. Ish. Rigonia. Buonasera a tutti. 20:40, 26 gennaio 2025 Rigonia, io sono Francesco. E questo è l'episodio che credo debba essere il 38 della famigerata, nonché inutile, seconda stagione di Rigonia. Stagione iniziata veramente tantissimi anni fa e si dovrebbe concludere con una puntata 100 che non arriverà mai. Un po' di microfono per me, per favore. Oggi era la serata giusta per trasmettere, da qualche tempo che avrei piacere a farlo, inoltre mi serve per tenere calda la voce, è un periodo in cui ho bisogno di rimettere la voce in sesto, sto fumando tanto e sto facendo poco per la mia voce. E, è una puntata dove in realtà avrei voglia di fare un po' il punto. La scorsa puntata è piaciuta ed è stata ascoltata da persone che non pensavo l'avrebbero ascoltata, quindi mi ha anche abbastanza sorpreso. La cosa che continua a colpirmi moltissimo è il riferimento costante, e questo accade, è accaduto anche con la newsletter, al fatto che io sia molto aperto con i fatti della mia vita. E questo mi ha dato modo di riflettere, ovvero devo dire la verità, e probabilmente è una cosa che ho detto e ripetuto altre volte, per me è una cosa così naturale che è per me è il contrario, non vedo dove dovrebbe essere la sorpresa. Poi sul fatto che si ragioni su aspetti esistenziali della vita, magari ok, d'accordo, su quello posso essere anche uno che ci va abbastanza spinto. Però appunto la nostra vita, il tempo che viviamo e che abitiamo e che ci è, che muoviamo in questa terra è il fulcro di quello che esiste, almeno nella nostra piccola porzione di tempo che ci è destinata ad abitare su questo bellissimo pianeta azzurro. E non lo so, nel senso, io credo che nell'arte e nell'espressione sia quasi impossibile non intravedere la vita dell'altro, anche per quanto trasformista o per quanto, come dire, maniacalmente attento a celare la propria identità, alla fine in realtà l'identità tradisce, così come uno come Bob Dylan, di cui vi ho fatto ascoltare 6 minuti e 28 di Hurricane, e poi anche io ho ceduto, perché 8 minuti, ragazzi, sono veramente troppi. Però anche uno come Bob Dylan, che ha avuto così tante trasformazioni e di fatto almeno io non credo che le persone sappiano ancora che razza di persona sia, anche uno come Bob Dylan alla fine nelle sue musiche era alla ricerca di se stesso. Comunque, al di là di questo, che poi è importante e giusto, l'idea era fare una puntata un po' didascalica, cioè dire, ma ok, dove mi trovo e perché sto facendo quello che sto facendo con la radio. E proprio per questo motivo ho deciso di buttare dentro la playlist un po' di brani un po' noiosetti, un po' da secchione. Cioè, grandi classici, cose molto belle, cose anche leggendarie, però effettivamente dal sapore un po' Virgin Radio, non so come dire. Virgin Radio. Virgin. Virgin Radio. Virgin. Oh no, no, l'audio. No, aspetta. Ah, quanto odio quando faccio i pasticci. L'audio, il volume della traccia. Dov'è la traccia? Dov'è la traccia? Questo è il volume della traccia. Questa deve partire da capo, sennò fa schifo. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Digesting young man says you are what you eat. Well, old man says you are what you wear. Well, well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leads his star trial through the night. Join the dance, follow on, till the grail finds its evil. Follow on till the gold is cold, dancing out with the moonlit night. Knights and the green shields stand and shout. Run! Put your hand in front of you and flex your wrist. You presumably first had a thought. Flex my wrist. That then caused your wrist to move. That's how it seems. But Benjamin Libet's experiments in the 1980s have cast some doubt on that. In his neuroscience lab, he wired up subjects to an EEG machine measuring brain activity via electrodes on their scalps, and then asked them to choose to perform a simple hand movement when they felt like it. He also got them to record the time at which they made a conscious decision to move their hands. Disconcertingly, he found evidence of brain activity initiating the movement hundreds of milliseconds before the conscious decision was reported. In other words, his experiments seemed to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Some people think this is proof that free will is an illusion, that our conscious decisions are more like reports on what is already happening than the causes of our action. Libet didn't go that far. He thought that we might not have free will, but there's still time for what some have called free won't, a conscious veto of an action that is started in the brain. Others are more skeptical about the implications of these experiments. They point out difficulties of recording the time of a subjective decision to move, and question whether Libet's findings could apply to more complex conscious decisions based on reasons, such as the decision to reject the claim that Libet's experiments undermine our idea of free will. Oh Gesù, ma che volume è? Mamma mia, scusate, oggi che cos'è? Rigonia, 26 gennaio 2025, 20:54, secondo bicchierino di Porto Rosso per me. Ho realizzato che ho la porta della camera aperta e questo è un problema. Come faccio ad arrivarci senza rompere il flusso? Non ce la farò. Oppure farò così. Ebbene sì, ho rotto il flusso. Stavo pensando, mentre ascoltavo i Genesis, ho bruciato praticamente un terzo di puntata tra loro e Bob Dylan, che quello che vorrei dire in questo momento è io penso che la radio, questa radio, queste puntate e Radio Antidoto siano il momento, lo strumento, la piattaforma dove io sia mai riuscito a esprimere meglio me stesso. A livello di linguaggio, a livello di ricezione, chi le ascolta, quando, cosa pensa, quello che riesco a dire, il fatto che riesco a mescolare la musica, i suoni, le voci. Non era così. Non era così né prima di conoscere, prima ancora che Radio Antidoto esistesse, e non era così neanche all'inizio di Radio Antidoto, ma adesso è così. Ho provato con la newsletter ed era divertente, ma mi mancava qualcosa di fisico, questa cosa che sto facendo adesso del parlare, e mancava qualcosa di catartico, nel senso che nel momento in cui io vengo qui in radio e racconto i fatti miei, io inizialmente avevo una forte, come dire, intenzione, avevo una forte difficoltà, chiedo scusa, a esprimermi secondo me con le parole esatte, mentre a furia di farlo, a furia di esercitarmi, ecco qua, nel senso, io quando parlo sto dicendo le cose che devo dire esattamente in questo momento. Ed è esattamente anche il motivo per cui io non riesco più a riascoltarmi. Le mie puntate, una volta che sono uscite, sono uscite. Poi sono lì a disposizione di chi alle 8:30 di domenica c'ha di meglio da fare, ecco. Però per quanto mi riguarda, quella roba lì è andata. Scrivo molte pagine di diario, l'ho detto altre volte, ho riempito taccuini, ne sto ancora riempiendo perché sono un esercizio ottimo per fissare il pensiero, per inquadrare il momento, per sfogare, tutto quello che vuoi. Però quello che faccio in questi episodi, a volte ho l'impressione che sia esattamente il motivo per cui io sono al mondo. E probabilmente non lo è in senso stretto, cioè non è fare rigogna il motivo per cui sono al mondo, ma il fatto che io possa esprimere, raccontare la mia verità in un canale che io percepisco come protetto, con una libertà creativa che è limitata soltanto dal fatto che sono un babbeo, per tutto il resto piena facoltà e a qualsiasi orario e su qualsiasi argomento. E perché proprio raccontare i cazzi miei? Ecco, perché proprio raccontare i cazzi miei? Beh, un po' l'ho già detto, ma io penso sia qualcosa di molto differente, proprio perché percepisco, o almeno mi viene riportata, una certa perplessità barra diffidenza barra curiosità barra anche ammirazione, ma anche non ammirazione, il contrario dell'ammirazione, che ora non mi viene in mente. Però appunto c'è qualcosa che l'aprirmi fa tremare e che mi, come dire, mi convince che devo continuare su questa strada. Cioè è questo tremore quello che vale la pena di ottenere. Poi fosse una persona puntata, una persona a settimana, non importa. Il fatto è che dentro c'è un viaggio e questo viaggio ha un senso, e chi ascolta, se vuole, partecipa al mio viaggio, se no no. Ma il punto è, se sto facendo un viaggio ha senso soltanto... Ciao Vittorio, un saluto a Vittorio che mi dice che spacco, sei un sant'uomo. C'è una chat di Telegram a cui le persone possono iscriversi, è libera, e lì si impara anche ad andare in onda. Non sto facendo più tanta promozione, non saprei chi far venire, e soprattutto ho come questa impressione che io, quando coinvolgo le persone nelle cose, poi quelle stesse persone che ho coinvolto, come dire, sono l'inizio della fine. Quindi siccome Radio Antidoto è il mio spazio sicuro, ho deciso che io, a me piace così com'è. Poi se qualcuno deve arrivare e trasformarlo e renderlo inabitabile, va bene. Fin quando non sarà così, io lo abiterò in questa maniera, perché mi serve. Non so come dire, è il mio studio. È il mio studio con le tele, dove posso lanciare il colore a pennellate. E magari, come dire, mettersi... E poi, voglio dire, mi metto nudo, ma mi metto nudo in camera mia, col mio microfono preferito, col mio computer super attrezzato, tutto acchittato come piace a me. Quindi è proprio il setting, è comodissimo. Quindi sì, nel senso, cioè, il punto è, ogni creativo ha un viaggio. Io non riesco a definirmi artista, non so se quello che faccio sia arte. Mi piacerebbe proporre Rigogna per una residenza, vorrei capire, vorrei scoprire se veramente è una cosa fattibile, se esiste, se si capisce che questa radio, questo tipo di radio, è una finzione, finge di essere una radio classica, ma non lo è affatto. Vorrei capire se c'è ancora spazio nel mondo per una, come dire, per un'iniziativa come la mia. La risposta è probabilmente in pochissimissimissimissimi luoghi. So che se li raggiungessi probabilmente potrei fare un gran bene, però il discorso è, ognuno ha il suo percorso, e per alcuni il percorso è creativo e per alcuni il percorso creativo è artistico, quindi seguendo dei canoni, seguendo delle stilizzazioni. Per altri come me il percorso è creativo in senso, se vuoi, radicale, se vuoi banale, se vuoi, non lo so, nel senso, io non mi so collocare. io lo faccio apposta, cioè ne ho bisogno ma lo faccio anche apposta. Potrei girarci attorno, potrei raccontarti una storia, potrei farla in 10 modi diversi. Potrei, perché no? E invece questo è il modo che mi fa stare bene, e è un modo spontaneo, un modo che risponde anche a una mia esigenza spirituale, cioè appunto riuscire a rimettere dentro la parola tutta la verità che le si può conferire in quel momento. Quindi è qualcosa che ha a che fare con una crescita esistenziale, e allo stesso tempo è una convenzione, perché c'è Lucia che mi entra in stanza così a sorpresa. E allora facciamo così: visto che parlo da tanto, mando un pezzo e cerco di capire che cosa vuole mia moglie da me. Volevo parlare. A richiamo questa puntata della magica commistione tra musica e parola. Oltre che appunto dagli ingressi inattesi del parentado in studio, quando sanno benissimo che sta registrando. No, in realtà Lucia avrebbe avuto piacere a partecipare, ma ho mandato la canzone per riuscire a parlarle, mi ha detto vorrei partecipare e poi niente, poi se n'è andata. Sapete che io ho piacere di stare in radio con Lucia, quindi mi avrebbe fatto piacere. Comunque sia, convenzione mettere un brano, convenzione un jingle, convenzione anche scegliere di che cosa parlare. Poi naturalmente ho parlato di cose anche molto urgenti, ho parlato anche di cose veramente, veramente personali, ma forte. Ma anche quella era una prova di coraggio. È difficile da vendere, cioè è difficile da vendere, ma letteralmente, nel senso vendere sul mercato, non è una cosa che ha mercato, che fa mercato. O magari sì, ma io non la voglio vendere, cioè è mia. È mia, la voglio condividere con chi mi va e tendenzialmente poche persone. Che un po' la tentazione mi viene anche di andare in una radio, passatemi il termine, una radio vera. Però la verità è che io non non ho voglia di scoprire cosa ne pensano gli ascoltatori di una radio vera di quello che ho da dire. Ma non perché ho paura che ne pensino di una cosa, ne pensi negativo, anzi ho paura che ne pensino in positivo. Non bisogna sottovalutare, e questa è la cosa che ho detto alla prima puntata del 2025, la protezione. Madonna, ho fatto incazzare Bonelli perché ho detto una radio vera. Ma sì, per farsi capire, una radio vera non vuol dire una radio meglio. Infatti io nella radio vera non ci vado, mi fa cagare la radio vera. Rigonia. So at Netflix, we have a strong culture of experimentation, which means that all of our product changes are tested. Experimentation is about enabling faster decisions and better decisions, and it's the driving force behind the pace of our innovations. Netflix is one of the rare companies that has the infrastructure, scale, and agility to advance experimental methods and be a pioneer in this field. If we want to answer a question. No, scherzo. Io ho cercato degli audio per oggi, per non mettere solo musica, ma non ero molto ispirato. Ho cercato solitudine, ho cercato sperimentazione, ho cercato espressione, creative expression, ho cercato creative experimentation, poi ho cercato creative expression, insomma, però anche lì c'è stato un periodo abbastanza lungo negli ultimi mesi in cui sono andato a cercare questi stimoli, questi suggerimenti, queste parole, mi sono tornati anche utili. Adesso è tutto tornato mambo jumbo, cioè è finita la magia, è tutta roba di cui non mi passa più niente. The beauty of the online world is it's constantly turning over, constantly changing. So you can test things freely and iterate. Just try. Just try putting things out into the world. Rigonia. Capito, questo doveva essere Rick Rubin. Che mi ha detto? Non lo so, ma non so neanche. No, non so neanche perché così, vedi, quando poi tradisco l'obiettivo si sente, non va bene, ma che è sta porcheria, che mo che c'entra, stavi dicendo un'altra roba, ci avete ragione, voci nella mia testa. Però è importante, tra l'altro un saluto a Federico Bonelli che mi ascolta, lui e Vittorio. Sono le rocce di questa scogliera che mi dice che la frase di Rick Rubin era bella. Sì, metti la roba online. Vabbè, sì, metti la roba online. Hai idea di quanta roba c'è online? No, metti online la roba che pensi abbia senso stia online. Io penso, a un certo punto mi passerà, però ho questa curiosità, questa voglia di esserci il giorno che qualcuno che non mi ha mai conosciuto, dopo che sarò morto, ascolterà sta roba. Qualcuno capiterà, qualcuno ascolterà, uno tra 100 anni per sbaglio una puntata strana e poi dirà: ma questo qua che cazzo era? I miei figli, non lo so, appunto. È quello il punto, però, no? Perché lo fai? Per essere ricordato? No. Lo fai perché... Io lo faccio perché altrimenti mi scorderei di quello che penso. Cioè, vengo qua e dico le cose che dico perché così questa cosa che ho detto l'ho detta, è fissa, è lì. C'è. Poi cambierà. Però in quel momento nel tempo avevo bisogno di dire quella roba lì e l'ho detta. E questo, credetemi o no, mi fa stare molto in pace e tra le altre cose appunto è catartico, perché è tutte le volte è come se è come se io facessi, mazza, ma Fred, ma vai in onda da sto studio figo qua, sta roba così, un po' asettico per la verità, un tavolino, un microfono, però c'ha il suo perché. No, Fred dice che va in onda alle 23, dice che va in onda alle 23, poi andrà in diretta alle 23 e passerà mezz'ora a dire che non funziona niente. Comunque sia, è così, nel senso, questo è il linguaggio, questa è la scelta, questa è la scoperta. Cioè, un giorno mi sono scoperto e ho detto, ehi cazzo, ma se io vado in onda e cerco di dire le cose nella maniera più concreta e più realistica possibile, su esperienze che ho fatto nella vita, che in qualche modo mi insegnano qualcosa su me stesso, ma anche sul mondo, perché io ho scoperto che non è che mi conosca più di tanto, cioè alcune cose dovrebbero piacermi e poi non mi piacciono. Se faccio questa cosa, io mi sento realizzato, e tutto d'un tratto anche le canzoni incomprensibili, super emotive, estreme, disperate che scrivevo a 16 anni hanno senso. Cioè era questa cosa qui di cui avevo bisogno, e quindi questa cosa qui è quella che sto facendo, tant'è che io voglio andare in onda con una cosa, ma questa cosa qui con cui voglio andare in onda non è ancora pronta, ci sto ancora riflettendo su, sto ancora appunto consultando il materiale. Non è una vera ricerca, però è più un modo di prepararmi a quando verrò da voi e vi farò il discorso. Mazza, quanto sei bello, Fred, questo capelletto. Mamma mia, troppo sexy, Fred, sexy. E musica. Smart brand decisions is just a matter of trying stuff, seeing what works, and then just doing it again. So Harper sent me the cover for Subtle Art, and originally it was just an asterisk. And I was like, this is so boring. I was like, we need something like iconic, something easily identifiable that's like mine. The people at Harper don't think about that stuff. They've got 20 other book covers to worry about. So I put it in Photoshop, started messing with it, and I found that splat. I was like, oh, this is perfect. 8 years later, it's literally on everything I do now because it's just become associated with me. Rigonia. E di solito l'esperienza radiofonica mi ha insegnato che a 45 minuti bisogna iniziare a chiudere, a tirare le fila di una puntata che è stata abbastanza strampalata tra gaff, ingressi, idee non chiarissime. In realtà il concetto era abbastanza chiaro, nel senso, l'idea era: voglio andare in onda e dire benvenuti in questa nuova nuova incarnazione di questo format, che è questo nome così egomaniaco che ogni volta che lo leggo mi vergogno, però è perfetto, non si può più cambiare, è perfetto, non si può più cambiare, maledizione, non si può cambiare la sigla, ci ho provato, non si possono cambiare i jingle, non si può cambiare niente, questa impalcatura è perfetta così, lo studio del pittore è allestito e ora, come ora, state assistendo forse al più grande show che io possa mettere in scena. Quello che dico adesso, quello che vi faccio sentire adesso, quello che faccio in radio adesso è forse la forma più pura che io abbia mai raggiunto nel mio processo creativo, nella mia esigenza espressiva, che si è mossa nella musica, nella prosa, nella radio fatta in altre maniere, nel quasi teatro, quasi, e tutto è confluito qua, ed è tutto perfettone, è tutto perfettissimo, e quindi si sta andando, cioè si procede, nel senso che io per primo sono curioso, cioè questa roba qua che sto facendo adesso, che veramente a volte penso, mi sveglio e penso, cazzo, per fortuna che tra 2 settimane vado in onda, cavolo, quella roba lì, questa cosa qua adesso mi dà un senso di scopo, io so che giro 2 settimane, un mese, comunque tornerò live e dirò delle robe che saranno il frutto di tutto quello che ho vissuto e pensato nel periodo precedente, sarà, come dire, un rilancio per tutto quello che faccio nella vita in generale dopo. Io so che esiste questa cosa e che adesso vive di un tempo sano, di un tempo fisiologico, vado in onda quando devo andare in onda e quando vado in onda ha senso, nonostante una puntata come questa possa mettere in discussione il concetto, ma vedete come sto cercando di riaggiustarmela in modo da tenere tutto abbastanza integro. E la domanda è, e quindi, cioè, farai di più, farai di meno, cosa ti verrà da dire tra un po'? Ecco, non lo so, forse nulla, forse è esattamente così, cioè, siamo arrivati al punto, ho fatto tutta una serie di tentativi e adesso la mia forma arte è questa e magari la devo mollare, cioè sto facendo questa cosa perché basta espressività, devo diventare un adulto di qualche tipo che insomma, non sta più appresso a ste robe, non ne avrà più bisogno, sarà completamente espresso e risolto nella quotidianità, nell'azione, come una vera creatura fatta, nel senso, se lì, cioè tutto quello che faccio è espressione sintetica e puntuale della mia identità, ma sicuramente quello che sta succedendo qui in queste ultime puntate è qualcosa che io personalmente, su cui metto l'accento per voi, a voi non ve ne fregherà un cazzo, come è giusto che sia, ma io voglio dirvi attention, perché in realtà il viaggio è appena cominciato, e perché questa cosa qui che sto facendo, nel modo in cui lo sto dicendo, è esattamente la roba che doveva essere 30 anni fa, che ne avevo 11, ma doveva essere già allora, ovviamente non poteva essere, adesso può, e quindi la facciamo così. 50 minuti, 21 e 21, 26 gennaio 2025, non ho voce, cioè non so dove è finita la mia voce, non c'è, non riesco a parlare, e sto facendo dei respiri che sembrano anche un palombaro, e quindi vi lascio con un ultimo pezzo che invece è un pezzo contemporaneo, quelli di prima erano i Family, alla fine dai non ho esagerato con i brani di Didascalici, c'avevo i Kinks, c'avevo gli Who, poteva diventare veramente una roba pallosa, invece vi lascio con un cantautore che si chiama Villagers, ha fatto un disco che io comprai 10 anni fa perché mi piaceva la copertina, appunto. Il disco era interessante, lui ha smesso di interessarmi subito dopo, ha fatto delle cose che non capisco, la gente che è uscita nel 2011 sembrava avere delle idee molto belle, poi non lo so, non me ne è piaciuta più neanche una, non so perché non lo so. Però questo pezzo qui, Eyes of the Dead, è molto bello, a me piace molto e sono molto contento di farvelo ascoltare. Grazie per essere stati con me, sarà una puntata che sta molto bene nei tempi, non è il caso di svaccare, anche perché ho altro da fare, però avevo piacere barra bisogno di fermarmi un attimo, dire queste cose ad alta voce e poi ricominciare con le mie giornate normalissime, come tutti. Vi abbraccio forte, statemi bene, grazie Red Antidoto, alle 22 c'è Svasso, quindi tra mezz'oretta, alle 23 c'è Fred e in chat su Telegram c'è Vittorcino che ti tiene compagnia. State bene e prendetevi cura di voi. Ciao! Ho voglia di cioccolata, Non c'è cioccolata in casa, maledizione. Just a minute. Are you easily led? Let me show you the back room where I saw the dead dancing like children on a midsummer morn. And they asked me to join. But my body was stubborn, wouldn't let me give in. So I offered a good deed in return for a sin. Now they got me where they want me, in this daily parade, and I'd walk unafraid. Rigonia.